La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, questa è Radio 24, è estate e la nostra ora di cinema è diventata un'ora e mezza improvvisamente. Come vedete siamo un po' fuori tempo, anzi siamo anzitempo. Perché? Perché per tutta l'estate fino a tutto il mese di agosto vi terremo compagnia per un'ora e mezza nei nostri tradizionali spazi del sabato e della domenica, perché vogliamo cercare di darvi più cinema. Proprio quando la stagione sembra andare verso la sua conclusione, noi aggiungiamo informazione, aggiungiamo suggestione cinematografica e lo faremo ogni settimana con una mezz'ora di anteprima rispetto all'ora tradizionale, che poi vi racconterà tutte le novità in sala per quanto concerne il cinema. Invece noi per mezz'ora vi racconteremo un personaggio. Lo faremo con i grandi nomi del cinema italiano e internazionale, di tutte le professioni del cinema, ed è proprio il caso di questa prima volta, diciamo, di questa novità, perché andiamo subito a scoprire chi sarà il nostro ospite di oggi. Le interviste della Rosa Purpurea. Sulle note della splendida colonna sonora del Gladiatore accogliamo qui alle interviste della Rosa Purpurea Luca Ward, The Voice, uno dei più grandi doppiatori italiani, nonché attore di acclamato successo. Ciao Luca e grazie di essere qui con noi. Ciao, buonasera a tutti, grazie a voi. Luca, abbiamo voluto introdurti appunto con queste note che sono già rimaste scolpite nell'immaginario collettivo, perché fra poco ne parleremo. Insomma, tu sei la grande voce dei DVD Hollywood, il doppiatore che ha messo insieme nella sua scuderia, nel suo personale album di figurine, una serie di nomi davvero straordinari, ma anche attore, come dicevo, di grande successo, di alcune fiction, cito Elisa di Rivombrosa per dirne una, che hanno avuto un impatto popolare davvero straordinario. Ma con te vorremmo ripercorrere un po' la tua storia, la tua carriera, cominciando dall'inizio, che è praticamente l'inizio della tua carriera e l'inizio della tua vita, perché mi risulta che tu a 3 anni hai cominciato già a fare capolino in qualche film televisivo e poi pian piano ad affermarti come attore prima che come doppiatore. Del resto, quando sei figlio di un doppiatore come Aleardo Ward, nipote di uno storico doppiatore come Carlo Romano, fratello di doppiatori, non potevi fare l'idraulico, diciamo. Beh, diciamo che era un po' difficile, dai. Cos'era, Luca, il cinema nella tua infanzia? Beh, il cinema è stato esattamente il sogno di un bambino, di un ragazzo. Naturalmente da bambino si vedevano i cartoni animati, poi man mano si è cominciato a vedere i grandi film, i grandi appuntamenti. C'era il lunedì del cinema, mi ricordo, quando ero ragazzo, ed era un appuntamento straordinario al quale nostro padre, insomma, non ci faceva mancare, anche se all'epoca, insomma, si doveva andare a letto dopo Carosello, c'erano delle regole molto ben precise. E quindi il cinema ha accompagnato veramente tutta la mia adolescenza, i grandi sogni. Pensa che quando andavamo al cinema, allora gli spettacoli cominciavano la mattina, a volte stavamo dentro una sala un'intera giornata, rivedevamo il film 4, 5, 6 volte. Senti, voleva essere da subito, da quando sei stato un ragazzino dotato, come dire, di uno suo spirito critico, voleva essere subito una professione, quella del cinema, o c'è stato un momento in cui è scattato qualcosa? Ma no, veramente no, perché io ho cominciato da bambino con i grandi sceneggiati della Rai che si facevano un tempo, e quella è stata quasi, diciamo, erano delle cortesie, no, che si scambiavano fra registi e attori. Dicevano, beh, ma perché non mi mandi tuo figlio a fare questa cosa, dai? Allora da lì è nato il Demetrio Pianelli, il Conte di Montecristo, la Freccia Nera, insomma tanti sceneggiati dell'epoca. Però in effetti nostro padre, insomma mio padre, voleva che noi ne stessimo abbastanza lontani da quel mondo. Poi inevitabilmente, per tutta una serie di motivi, papà ci ha lasciati molto presto, è morto quando io avevo 13 anni, è stato quasi una condizio sine qua non, cioè o facevamo questo mestiere oppure era dura, insomma, all'epoca, quando andò via papà, insomma. Luca, senti un po' che clip ho preparato, vediamo se riconosci questo film. C'è tuo padre. Okay. Allora io punto 5.000 sulla prima combinazione. Tu 5.000. Anna. 7.000 che riesco a portarla al bar. Tu 7.000, fuori soldi, dai. Fuori, su. Ma papà, insomma, mi devi venire a prendere anche a scuola. Stai sempre vicino a quello, eh. Ma quando mai? Avanti, cammina, vieni. Ecco, stai sempre vicino a quello, il padre lo diceva proprio di Luca Ward, che era, era il pretendente di questa ragazzina in questo film, che è Chewing Gum. Del 1984, un film che ha segnato molti della nostra, delle nostre generazioni, insomma, i dintorni. Che testa fresca, come si dice a Napoli, capa fresca, proprio, cioè, che c'era all'epoca. C'era... Che poi, pensa che all'epoca, io quando feci questo film, che è stato, diciamo, il primo film cinematografico che io ho girato, mi ricordo che molto, in maniera molto critica, dissi no, non sono ancora pronto per fare il cinema, e mi ritirai. Mi ritirai, decisi di non farlo, e quindi di cercare di prepararmi meglio a questo mestiere, e invece forse avevo sbagliato, perché rivedendolo a distanza di tempo, io l'ho rivisto poco tempo fa, e non ero poi così proprio da buttare via, non so perché all'epoca mi censurai così in maniera molto, molto decisa, non lo so perché. Ma lì appunto attore e nel frattempo anche doppiatore, o la scelta poi di puntare più forte nel doppiaggio, almeno per tanti anni, è arrivata dopo? No, guarda, il doppiaggio, diciamo, è stata una sorta di rivalsa, nel senso che ai tempi il doppiaggio era un ambiente molto, molto, molto, molto chiuso, e soprattutto era gestito dai potenti del doppiaggio. Mio papà aveva, per carattere purtroppo, pagato un po' nel suo mestiere di attore e di doppiatore. Io ho scelto di spingere tantissimo sul doppiaggio. Primo, perché non c'erano compromessi, nel senso che se eri capace andavi avanti, se non eri capace venivi eliminato. E poi proprio per una sorta di rivalsa, io volevo diventare da ragazzo il numero uno e prendere quello che mio padre non aveva avuto. Insomma, è stata una sorta di piccola, diciamo, chiamiamola così, allegramente, di piccola vendetta, via. Senti, tu all'inizio degli anni 90, diciamo, più o meno, cominci a incrociare la tua voce con alcune delle icone totali, assolute del cinema americano. Mi viene in mente, per esempio, il Kevin Costner del Robin Hood, Principe dei Ladri, che sentiamo. Il branchino Robin. Ecco i tuoi spettri, Duncan. Campane a vento. Un giocattolo messo al punto giusto. Che rapporto si crea, Luca, con il corpo dell'attore a cui dai la voce? Ma guarda, prima di tutto è una grande responsabilità, perché quando tutti noi, insomma, attori che ci troviamo di fronte a dei nostri colleghi stranieri, e quindi dobbiamo in qualche maniera fare sicuramente nella metà del tempo quello che loro hanno fatto, anche molto bene, sicuramente diciamo che l'approccio è di grande responsabilità. La cosa strana è che quando comunque ci riascoltiamo, ci risentiamo, conoscendo molto bene la voce dei nostri colleghi, suona sempre un po' come un ibrido, no? Ma come? Questo c'ha Kevin Costner che c'ha la voce mia. È comunque una cosa strana, devo dirti la verità. Ecco, un film che è stato molto particolare, anche all'epoca, ricordo, fu vissuto come un film dirompente, soprattutto per una tipologia di pubblico che era quella, diciamo, dei giovani fino ai 22-23 anni, così, era Il Corvo, che forse, rivedendolo oggi, anticipò tantissimo molte linee anche estetiche del cinema contemporaneo, tratto dai fumetti. Mi vengono in mente alcuni Batman, mi vengono in mente alcuni supereroi. Lì c'era Brandon Lee, tra l'altro un film maledetto fra virgolette, perché appunto, come sappiamo, Brandon Lee non riuscì a terminare le riprese, fu poi rieditato in fase di montaggio. E allora ascoltiamo un passaggio del Corvo per poi parlare dell'epica e della poetica di questo film. Voglio che mi racconti una storia. Quella di un uomo e una donna crediti un anno fa. Che cazzo dici? Sei completamente... Sta zitto! Non puoi averli dimenticati. Li hai uccisi tutti e due la notte di Halloween. Sì, mi ricordo, la notte di Halloween. È una coppia di stronzi, ma te che cazzo te ne frega? Lei si chiamava Shelley. L'hai sgozzata. L'hai violentata. Sì, ammazzo la gente. Sai perché? Perché mi piace, perché mi eccita. E adesso te ne accorgerai. Ti voglio presentare i miei amici. Non falliscono mai. Vittime. Non lo siamo tutti. Con questa frase Luca comincia una serie di frasi storiche. Nella seconda parte poi della nostra intervista avremo quelle del gladiatore, che sono rimaste davvero nell'immaginario. Però grande vendicatore questo Corvo, eh? Sì, bello spirito di vendetta, no? Che forse in tutto sommato c'è un po' in tutti noi. Il Corvo ha segnato veramente ha messo proprio un punto, sia per il cinema sia proprio anche per tutta una serie di cose che poi sono accadute dopo, no? Queste aggressioni, queste cose che vediamo oggi tutti i giorni, all'epoca negli anni 90 ci sembravano un po' fantascienza perché non c'erano queste aggressioni nelle abitazioni, nelle case, gente che veniva ammazzata con un'estrema facilità per 20 euro, per 10 euro, insomma. E questo poi, l'aspetto diciamo sociale, l'aspetto poi cinematografico del Corvo è straordinario, perché se pensi che nel 93, quando loro lo hanno girato, 92 mi pare, 93, questo era un videoclip, insomma, ha cambiato e modificato tutta una serie di aspetti del cinema che poi hanno preso, no? Proprio dal Corvo, tu l'hai detto prima, si sono ispirati a questo modo di girare, a questo regista. Poi certamente sì, c'è l'aspetto negativo del film, è stato un film veramente maledetto per quel ragazzo. Le interviste della Rosa Purpurea. E questa non è una salita e una discesa melodica, è una specie di marchio di fabbrica. James Bond, qui siamo nei James Bond più recenti, perché Luca Ward, che è il nostro ospite di oggi delle interviste della Rosa Purpurea, è anche, tra l'altro, la voce di Pierce Brosnan, e con lui ha messo insieme più di un film della saga di 007. Luca Ward, a metà degli anni 90, a proposito di film che hanno segnato un punto, ne parlavamo prima per il Corvo, Pulp Fiction quel punto lo ha fatto grosso come una casa, lo ha fatto tridimensionale, perché da lì in poi si è aperto praticamente, si è inventato letteralmente un nuovo genere che qualcuno ha definito il tarantinismo, tanto per capire quel mix di sparatorie, violenza, ironia quasi fumettistica che contraddistingue quel film, come ripeto, e tutto quello che è venuto dopo. Tu la leggi la Bibbia? No, di regola no. Beh, c'è un passo che conosco a memoria. Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato è minacciato da ogni parte dalle iniquità degli esseri egoisti e dalla tirannia degli uomini malvagi. E la mia giustizia calerà su di loro con grandissima vendetta e furiosissimo sdegno, su coloro che si proveranno ad ammorbare e a distruggere i miei fratelli. E tu saprai che il mio nome è quello del Signore, quando farò calare la mia vendetta sopra di te. Ora, sono anni che dico questa cazzata, e se la sentivi, significava che eri fatto. Samuel Jackson in Pulp Fiction, Luca Ward in Pulp Fiction, e qui alle interviste della Rosa Purpurea. Luca, predica straordinaria, perché passa dal molto sacro al molto profano. Sì, guarda, questo è stato un film eccezionale. Io ho avuto la fortuna di far parte di questo cast di voci, un cast poi d'eccezione, voluto proprio da Cecchi Gori, che aveva molto timore all'epoca di doppiare questo film, perché era particolarmente difficile, e si affidò a un pool di attori. Senza di quelli credo che lui non lo avrebbe mai fatto il doppiaggio, tant'è che noi addirittura il doppiaggio di Pulp Fiction lo abbiamo fatto quasi tutto di notte, perché nessuno di noi in quel periodo poteva, eravamo tutti impegnatissimi e l'abbiamo fatto in orari un po' straordinari. Grazie a dei dialoghi italiani straordinari fatti da Francesco Vairano, la direzione del doppiaggio era di Pino Colizzi, e devo dire che proprio rimane scolpito nella storia, proprio aver partecipato a quel doppiaggio è una cosa straordinaria. Come osi voltare le spalle a me? Schiavo! Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta. Beh, anche partecipare al gladiatore, Luca, non deve essere stato male come idea, eh? No, guarda, Io ho avuto questa fortuna, diciamo, perché ho messo la voce su tutti i film, molti dei quali sono diventati poi dei cult. Se pensi che Gladiatore del 2000 e ancora oggi vengo fermato per la strada, un po' qualcuno mi chiama generale, qualcuno mi chiama Massimo e molti mi chiedono di fare, di recitare così le frasi del film, che io chiaramente ormai dopo tanti anni ho imparato a memoria. Ed è bellissimo, poi la riconoscibilità di una voce per un attore credo che sia straordinaria. So che con Russell Crowe, Luca, si è creato anche un rapporto d'amicizia, cioè vi siete spesso incontrati quando lui è venuto a Roma, ha voluto conoscere la sua voce italiana, avete chiacchierato a lungo. Che tipo ti è sembrato? Quali sono state le tue sensazioni? Ma guarda, devo dire che per molti versi le nostre carriere per un certo periodo si sono addirittura un po' somigliate. Lui è un ragazzo dal grande carattere, grande temperamento, grande voglia di combattere, di lottare. Anche lui, insomma, è arrivato al Gladiatore, diciamo, in età adulta, perché non era considerato un protagonista. Tutte le volte che lui si presentava appunto per essere protagonista di un film gli dicevano che non aveva il fisico da protagonista, tant'è che addirittura il film, da alcune notizie che insomma sono arrivate, il Gladiatore, la produzione voleva Mel Gibson e fu Ridley Scott a impuntarsi a dire che se avessero scelto Mel Gibson avrebbero sbagliato il film, ci voleva un viso non troppo conosciuto che potesse interpretare questo ruolo. E così è arrivato questo Russell Crowe, e da allora poi non si è più fermato. E fu proprio lui a dirmi che se non ci fosse stato questa impuntatura di Ridley Scott, lui probabilmente sarebbe stato relegato a fare sempre ruoli, diciamo, di secondo piano. Corto, cosa fai qui fuori? Sto pensando che dovrei decidermi a partire. Venezia mi impigrisce. Venezia è fatta per questo. Vuoi un bicchierino di rosolio? Rosolio? Credevo non si bevesse più. Atmosfere rarefatte, davvero raffinate per Corto Maltese, e perché Luca Ward è stato anche la voce di personaggi che non erano in carne e ossa, in questo caso di un film d'animazione, e però con un personaggio di grande letterarietà, appunto come Corto Maltese inventato da Ugo Pratt. Come si lavora, Luca, su un personaggio che non si muove come te, ma che è fatto di carta e di disegno? Ecco, questo è l'aspetto sicuramente più difficile del nostro mestiere. Per quanto riguarda Corto Maltese forse meno, perché già il disegno, i dialoghi stessi comunque sono molto vicini, no? Anche se è un cartone animato, ma quasi sembra di vedere un attore in carne ed ossa. Ovviamente la parte più difficile di quando si entra a far parte di un cast d'animazione è che lavori su tempi che non sono umani. E non hai le avvisaglie, cioè noi attori li guardiamo negli occhi, guardandoli negli occhi sappiamo già quando partiranno, come diranno quella battuta, eccetera. Il cartone animato non ti avvisa, ha dei tempi, diciamo, tra virgolette meccanici. Lì ci vuole molta fantasia. Mia sorella Monica, per esempio, è doppia, vabbè, Lisa Simpson, una per tutti, però ecco, ci vuole una fantasia enorme e grande creatività per fare un cartone animato. Per l'ultima volta, dove sono? Non so di che cosa parlate. O voi adesso mi dite dove li nascondete, oppure quando i miei uomini troveranno la vostra cara serva, non le lasceranno nemmeno il tempo di una preghiera. Se siamo qui vuol dire che non l'avete ancora trovata, quindi perché dovrei preoccuparmi? Beh, questa clip ci introduce alla parte, diciamo, invece più visiva del lavoro di Luca Ward. Visiva per noi, visiva per gli spettatori, per i telespettatori, perché gli anni 2000 di Luca Ward sono stati anche gli anni di fiction e film televisivi di grandissimo successo. Pensate ai titoli da Incantesimo a Carabiniere, a Don Matteo, a 100 vetrine e a Elisa di Rivombrosa, che è stato un vero e proprio fenomeno nel suo genere. Luca, recitare muovendo anche il corpo, usando anche il corpo quando si abituati a stare in uno studio di doppiaggio dietro un vetro, a vedere gli altri. Quale tipo di differenze, quale tipo anche di difficoltà porta un doppiatore? Beh, innanzitutto quello che ci salva, diciamo, quando passiamo dal leggio al set è il teatro. Naturalmente dobbiamo andare a prendere tutto nel nostro zainetto, nel nostro bagaglio, il teatro che abbiamo fatto, soprattutto poi quando si interpretano dei ruoli diciamo d'epoca. Questo era il 1725, più o meno era ispirato a quell'epoca lì, quindi il comportamento, il portamento, il modo di dire le battute, eccetera, dovevano comunque ricordare quell'epoca. Elisa di Rigombrosa, sicuramente il mio personaggio Ranieri è stato scritto splendidamente, perché era un cattivo con delle motivazioni, però c'erano delle motivazioni che lo spingevano ad essere cattivo. In realtà lui credeva soltanto, sapeva che il re era debole, infatti di lì a poco la rivoluzione francese, no? E aveva la necessità di togliere di mezzo questo re debole per riprendere in mano la forza del potere del comando. È stata una favola meravigliosa, ha portato davanti al televisore 15 milioni di telespettatori nell'ultima puntata. Penso che sia stato l'ultimo grandissimo sceneggiato che la televisione ha prodotto. Luca, siamo stati insieme mezz'ora, abbiamo colto una parte della tua storia e anche della tua anima di doppiatore e di attore, però ovviamente siamo arrivati alla fine di questa nostra intervista e, come ti chiedono tanti quando ti incontrano e ti fanno fare i pezzi del gladiatore, io non posso esimermi dal chiederti di chiudere questa nostra puntata scatenando l'inferno. Ma naturalmente, io lo dico sempre un po' a tutti quanti, no? Non mi fanno, dottor, ce la fa la frase? Dico, certo che ve la faccio, al mio segnale, scatenate l'inferno. Che poi mi piace, è bello passare dal romano all'italiano. Grazie Luca Ward. Grazie a te, grazie a voi, un saluto a tutti. E Luca Ward lo ritroveremo fra poco alla Rosa Purpurea, nella tradizionale ora di cinema del weekend di Radio 24, con tutte le novità al cinema, tra cui Nauta, appunto interpretato dal nostro ospite di oggi, Linea alla regia. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea, di nuovo un saluto da Franco D'Assisti, e questo è il momento dell'attualità cinematografica nel weekend di Radio 24. Parleremo dei principali film in uscita nelle sale cinematografiche italiane. E come sempre cominciamo ad entrare nel vivo di questa ora di trasmissione con i nostri titoli di testa. L'alieno Paul atterra nelle nostre sale, parla con la voce di Elio e viaggia con due nerd inglesi appassionati di fumetti attraverso l'America degli avvistamenti UFO. Viaggio on the road per tornare a casa. Arriva nei cinema italiani La polvere del tempo di Theo Angelopoulos. William Dafoe è un regista deciso a raccontare la storia d'amore dei suoi genitori sullo sfondo dei grandi mutamenti storici del Novecento. Un inno contro l'espatrio dei sans-papiers è Tutti per uno, di Romani Goupil, storia di Milana, una bambina di origine cecena che vive a Parigi. Per non farla rimpatriare, i suoi compagni decidono di mettere in atto un piano che manda in subbuglio la città. Esce Nauta, opera prima di Guido Papadà, storia di un antropologo che mette insieme una spedizione marina per andare alla ricerca della perfetta armonia tra uomo e natura. Non è finito niente. Non finisce mai niente. Ritorno dove ho lasciato che una storia scivolasse nel passato, perdendo la sua chiarezza sotto la polvere del tempo. Ti ho ritrovata finalmente. E poi, inaspettatamente, a un certo punto, la storia ritorna. Come un sogno. Cinecittà ai giorni nostri, questo è Polvere del Tempo, la polvere del tempo di Theo Angelopoulos. Dicevamo Cinecittà ai giorni nostri, un regista americano, Willem Dafoe, nel film, di origini greche, vuole realizzare un film sulla storia dei suoi genitori, come avete sentito nella clip, la storia che si è persa un po' con la sua chiarezza nella polvere del tempo. Genitori che erano perseguitati politici durante l'occupazione nazista in un paese dell'est europeo che poi cambia di volta in volta. Il film viaggia attraverso l'ex Unione Sovietica in molte, molte nazioni, in molti posti. Il film si dipana in due piani narrativi, quello dell'oggi con il regista appunto che cerca di finire questo film in mezzo a mille vicissitudini, e poi il piano del passato in cui pezzo per pezzo ricostruisce la storia d'amore fra sua madre e due uomini che l'hanno amata ma che la storia sempre inesorabilmente separato e ricongiunto con la donna. Elena, ti ho ritrovata finalmente. Sei tu. Sei qui. È come se il tempo si fosse fermato a quella notte che ballammo lungo il fiume. Sei tu. Sei qui. La musica si è fermata. L'avete sentita, lei è Irène Jacob, un'attrice che negli anni 90 con Krzysztof Kieslowski era diventata veramente molto popolare, che Angelopoulos recupera in questo film. Un film che comincia il giorno della morte di Stalin, almeno la storia dei genitori del regista comincia lì, e attraversa il Kazakistan, la Siberia, passa per l'Italia, la Germania, gli Stati Uniti. Teo Angelopoulos mette a confronto il suo passato con un presente doloroso, fra la separazione dalla moglie e la scoperta dei turbamenti della figlia adolescente. La polvere del tempo che cade su ogni cosa, su tutti noi, grandi e piccoli. Questo è il racconto, mi rendo conto, magari non molto chiaro, di un film che in effetti non ha un racconto molto chiaro. Il cinema di Teo Angelopoulos, per chi lo conosce, è un cinema fatto di suggestioni visive, di grande poetica, di immagini, ma in questo caso almeno non particolarmente riuscito sotto il profilo narrativo. Non era facile, perché i due piani temporali si susseguono l'uno con l'altro. Non era facile perché la storia del passato, quella della madre del regista Willem Dafoe, con i suoi due amori, con i suoi due amanti, è una storia molto frammentaria per unità di luogo e anche per persone che vi partecipano. In più Angelopoulos ci mette un po' di stanchezza, se vogliamo, un film prolisso, slegato, difficile cogliere tutti i piccoli riferimenti e legami che tengono stretti l'ieri e l'oggi. Ciononostante però, La polvere del tempo ha un suo fascino, un fascino, se volete, cinematograficamente démodé, è il fascino di film che non si fanno più, di film che appartengono a maestri che non operano più. Teo Angelopoulos è un signore di una generazione che non è quella oggi del mainstream cinematografico, ma proprio per questo, come quando capita con altri grandi maestri della sua generazione, mi viene in mente Costa Gavras, tanto per pensarne un altro, c'è comunque il senso di un cinema fatto in una maniera diversa, in una maniera che guardasse meno al racconto immediato, all'emozione immediata, alla fretta, al montaggio serrato, ma si prendesse i suoi tempi per cercare, a volte magari senza riuscirci in maniera brillante, di trovare appunto un nodo e di raccontare quello che bisogna raccontare con i tempi necessari. Una poetica, se vogliamo, sconosciuta al giovane cinema europeo, propria invece di un grande regista del Novecento come Teo Angelopoulos. Insomma, potete vederlo questo film, magari non lo capirete fino in fondo, ma ci sono delle suggestioni nelle immagini, una creazione della scena che non sono tipiche del cinema contemporaneo. Io ho in collegamento Boris Sollazzo, che è già con noi perché ci aiuterà a raccontare i prossimi due film nella seconda parte di questa di quest'ora di cinema, però lo voglio già chiamare in causa. Ciao Boris. Pronto, ciao Franco. Eccoti, ciao. Senti, tu hai visto il film La polvere del tempo? Mi pare di sì, perché era andato a Berlino 2 anni fa, no? Assolutamente sì, non ne sono uscito molto bene. Anche tu hai fatto fatica. Stavo proprio spiegando, non so se tu hai sentito fuori onda appunto al nostro pubblico, di un film largamente non riuscito, sicuramente con uno stile démodé, con uno stile passato per quello che è il cinema di oggi, ma ciò nonostante, forse proprio per questo, non privo anche di un suo fascino. Se lo si prende per singole situazioni, per singole immagini, per singoli momenti. Ecco, no, sono d'accordissimo con te, cioè per esempio il momento di passaggio di frontiera, insomma chi vedrà il film capirà che è un momento molto forte a livello di immagini, hai proprio l'impressione che sia un grande maestro, ecco, mi ha dato la stessa impressione che mi hanno dato gli ultimi film di Coppola, Un'altra giovinezza e Tetro, due film a mio parere non riusciti, con momenti di assoluta grandezza, probabilmente perché come dire, anche Maradona adesso che ha 50 anni e gioca a partite di beneficenza tira delle punizioni straordinarie, per il resto chiaramente non può più essere all'altezza di quello che era prima, e Angelopoulos probabilmente in questa polvere del tempo subisce la stessa condanna. Un film davvero difficile da sopportare, però con momenti, come dici tu, di assoluta grandezza. Ed eccoci ancora qua, Rosa Purpurea. Una risata vi seppellirà, diceva un famoso motto. Ebbene, è quello che cerca di fare, di mettere in scena, pure con qualche rischio se vogliamo, no? Perché si dice spesso su certi temi non bisognerebbe ironizzare, invece lo fanno con grande divertimento in questo film Four Lions di Christopher Morris, che racconta un plot strampalato, una città inglese, quattro uomini che hanno un piano segreto perché vogliono praticamente mettersi un po' nell'ambito di un terrorismo islamico un po' sui generis, dobbiamo dire, e sono molto pasticcioni e non ci riescono particolarmente. Allora, prima di sentire un po' la valutazione su questo film da Boris Sollazzo, cominciamo a entrare un po' nel clima con la clip. Vi farò come fattoria su. No, no. Perché? Cos'è quel fucile? Vera imitazione. Cos'è il fucile di Action Man? Per evitare che ci rintraccino è molto semplice. Basta mangiare la silva. Posso cuocere la mia? È arrivata la chiamata, fratelli. Che chiamata? Campo d'addestramento. In Pakistan. Watch, è un drone. Dobbiamo abbatterlo. Corre! Quello che faremo deve segnare la storia. Perpetrarsi nei secoli. Colpiamo qualcosa. Che vuoi colpire, Watch? Internet. È così stupido come sembra. Il mio piano, ti spiego, è attaccare una bomba a un corvo. Un solo scossone e questa roba parte, chiaro? Dovete correre piano. Dovete correre veloce, ma dovete correre piano. Quindi possiamo nascondere l'esplosivo in un costume. È perfetto. Siete in ritardo per la corsa. Morirete con quei costumi, ragazzi. Per una giusta causa, però. Direi che vi ammazzo. Perché? Per la jihad, cavolo. Ma noi siamo a favore della jihad, fratello. Sei confuso, Watch. Non sono confuso. Beh, insomma, molto molto divertente. Arriva finalmente con un po' di ritardo nelle sale italiane questo Four Lions. Boris, allora si può scherzare di tutto. Si può scherzare di tutto, soprattutto come lo fa Christopher Morris, che in patria è molto conosciuto come autore di satira televisiva, e qui fa qualcosa di clamoroso, perché non scordiamoci che se la nuova frontiera del terrorismo islamico, insomma, è cominciata a metà degli anni 90 ed è esplosa nel 2001 in America, a Londra è molto più recente, quindi scherzare su un attentato come fa Christopher Morris è quasi andare contro qualcosa di sacro. Lui secondo me ci riesce, il film ha alcuni difetti, ma a mio parere perché punta altissimo, vuole fare con il terrorismo islamico quello che Kubrick fece con il dottor Stranamore, e quindi ogni tanto perde un po' la brocca, però a mio parere ha un finale geniale, una seconda parte spassosissima, non ha pietà verso i propri personaggi, verso gli spettatori e verso la storia che racconta, e ci sono dei momenti, adesso esagererò, tirerò anch'io la bomba, ci sono dei momenti che mi ricordano i Monty Python, quindi con tutti i difetti che può avere Four Lions secondo me va visto. Purtroppo in Italia lo stanno vedendo davvero in pochi, temo perché quando un film esce così tardi e se ne è parlato così bene, internet faccia la sua parte e quindi negli incassi venga penalizzato, e questo è un problema perché chiaramente magari altre volte i nostri distributori non compreranno film del genere che comunque meritano. Beh, vedremo adesso come andranno le cose. Certo, è un periodo in cui, tanto per fare un cenno alla classifica, super guidata dai Pirati dei Caraibi con più di 11 milioni incassati fino adesso, e con il secondo posto di Una notte da leoni 2 che invece di milioni ne ha portati a casa più di 3 nella sua prima primo weekend di programmazione. Dicevo, è una settimana nella quale con 100.000 euro di incasso più o meno sei al sesto posto in classifica, ecco, quindi È chiaro che gli incassi si stanno un po' abbassando, è fatale, gli esercenti gioiranno per questo weekend per esempio di maltempo che sta aiutando molto a voler andare al cinema, però insomma nonostante il prodotto ci sia, stia arrivando, insomma siamo ancora lì al solito discorso che facciamo di anno in anno in questo momento, cioè la stagione si accorcia e poi rimangono solo alcuni blockbuster a tenere alto il livello del box office. A questo punto io chiedo a Boris di rimanere ancora con noi perché dobbiamo affrontare un altro film molto particolare italiano che si intitola Nauta. Prima però cominciamo a giocare con il nostro DVD game, che anche questa volta gioca con l'alta definizione, quindi con un Blu-ray, perché c'è un film che arriva in questo formato. Noi cominciamo a sentire la prima clip. E l'altro lato ti farà? Che sfacciataggine! Dovrei faticare tanto a far uova per farmele poi mangiare da un serpente come lei! Beh, se siete gli esperti di questo genere potreste anche avere già indovinato di che film si tratta. La Rosa Purpurea @radio24.it. Se avete già capito che film è, scrivete sempre, come vi chiedo ogni settimana, vostro nome, cognome e indirizzo, perché questo agevola sicuramente molto poi le procedure di spedizione del Blu-ray di questo film per il più bravo e veloce del sabato e della domenica. E allora parliamo di Nauta, lo abbiamo introdotto, accennato pochi secondi fa. Nauta è un altro film italiano che arriva nei cinema in questo fine settimana, ed è un film molto particolare. Come abbiamo detto più volte nelle ultime settimane, il cinema italiano si arrabatta un po' tra il tentativo di fare film che escano dal filone obbligatorio della commedia da incasso, da botteghino, che è stata, ben venga per carità, ma che è stata la dominatrice di questa stagione cinematografica italiana, e di fare un cinema altro, soprattutto i registi più giovani. Questo è un esordio di Guido Pappadà, con un cast di attori che va da David Coco a Elena Di Cioccio, e passa per una delle voci principali appunto del cinema italiano, come quella di Luca Ward. Ma la cosa interessante è un po' il taglio, il tema, intanto anche la location, che è uno splendido veliero. Tra l'altro fra poco sentiremo appunto Luca Ward raccontarci un po' di questa straordinaria location e di un viaggio alla ricerca dell'armonia con la natura. Detto così sembra molto New Age, noi andiamo a sentire la clip. Nel taoismo il concetto di entità suprema non si identifica con un dio giudice che osserva il mondo dall'alto, ma si identifica con un'energia pura che pervade l'intero universo, la natura. Il motivo che ci spinge fin laggiù è testimoniare l'esistenza di un fenomeno naturale descritto solo poche volte in più di 2000 anni di storia. Comandante! Finalmente la tua curiosità ci porta lontano. Un uomo che non è curioso è un uomo morto. Donne sì, sul ponte, vai all'orizzonte. Se hai gli stessi anni della barca, te li porti bene. Sulla galette la natura si rivela. Un mix di viaggio, di road, anzi di on the sea, potremmo chiamarlo questo genere, con questo veliero, ma anche di avventura, di tanta avventura in questo film. Come se la cava Guido Pappadà, Boris? Ti dirò, è un film strano, come hai detto tu. Oggi mi fai parlare solo di questi oggetti cinematografici che non possono essere, come dire, inquadrati in un genere, perché non lo hanno. Però a me ha lasciato una buona sensazione. Secondo me Pappadà è bravo, mette insieme un po' troppe cose. Devo dire che non mi convince molto, diciamo, la parte più New Age. Mi piace molto invece l'unità di spazio, diciamo, il fatto che questo splendido veliero, sperando che ti porti più fortuna di pirati, insomma, questo veliero rappresenta insomma una grossa sfida per il regista, molto, molto difficile secondo me, che lui vince. Mi piace anche la caratterizzazione di alcuni personaggi, questa Laura, biologa cocainomane, insomma è un gioco di genere che mette insieme tanti generi, partendo da un qualcosa che esiste, cioè una ricerca, un fenomeno molto particolare che chi vedrà il film potrà constatare, è un uomo bruno che mette su insieme una squadra per fare questa ricerca. Devo dire che sono curioso, ecco, è un film che con tutte le sue imperfezioni comunque mi mette curiosità nel vedere il proseguo della carriera di Pappadà, e credo che non sia poco per un'opera che credo abbia avuto comunque le sue difficoltà per quanto riguarda i finanziamenti e via dicendo. Credo che sia alla fine un esperimento riuscito. È sicuramente uno dei compiti delle opere prime ormai nel cinema italiano quello di consegnare a un regista la possibilità di fare un'opera seconda. Non si può chiedere di più. Grazie a Boris Sollazzo. Noi cominciamo invece a sentire Luca Ward, uno dei protagonisti, il timoniere di questo vascello, e quanto è stato importante proprio questa location nella scelta di partecipare al film. Sentiamo. È una barca del 1938, una barca a vela meravigliosa che appartiene oggi a Carlo Falcone, che poi tra l'altro è stato uno dei produttori di questo film insieme a Silvana Leonardi e Christian Lelli. E la cosa che naturalmente mi ha fatto volare di corsa su questo set è proprio l'idea che sarei stato il timoniere di questa meravigliosa barca, che altrimenti non avrei mai timonato, credo, nella mia vita, perché quando mai ti ricapita di avere tra le mani il timone di una barca così famosa, perché è una barca molto famosa, fa le regate d'epoca ed è una barca anche molto invidiata perché è molto veloce. E questo naturalmente ha fatto sì che, ma tutti noi siamo stati trascinati in questa operazione con grande entusiasmo. E Luca Ward racconta così il suo personaggio. Io sono lo skipper di questa barca, sono il comandante che ospita a bordo questi viaggiatori, questi ragazzi, ognuno con una storia diversa, ma tutti quanti con un'idea, quella di andare a raggiungere, pare che sia accaduto un effetto sovrannaturale in Tunisia, e a questo punto scatta immediatamente il sogno dell'uomo di andare subito a vedere questo effetto straordinario naturale, e quindi anche un riavvicinamento dell'uomo verso la natura. Tutto il viaggio, diciamo, di questa barca è un viaggio che accompagna lo spettatore sicuramente in un momento di grande sogno. Ed è un messaggio, io credo, in un momento come questo, che è proprio quello di non smettere di sognare, nonostante tutto quello che accade intorno a noi ci cerca di farci fare il contrario. Noi invece con questo film il messaggio è proprio questo, che il sogno non deve morire mai. Eravamo in Francia nel 2008-2009, non mi ricordo più chi era presidente. Avevo 10 anni, 10 anni esatti nel 2009. All'epoca, come descrivervelo, eravamo stipati in grossi edifici per fasce d'età, quelli di 5-6 anni, di 8-9 anni divisi per classi, in gruppi di circa 30 bambini. È difficile da spiegare oggi. Comunque stavamo insieme tutto il giorno per imparare. C'era una maestra, un'adulta, che ripeteva sempre le stesse cose. Ma non aveva tempo per insegnarci singolarmente, peggio per noi se non capivamo. Eravamo una banda. Comincia così, come una favola, Le Main en l'air, le mani in alto, del titolo originale, che in Italia esce col titolo, diverso ma azzeccato per una volta, di Tutti per uno. A parlare è Milana, ormai anziana, che non si capacita di ciò che era il mondo tanti anni prima, quando lei aveva 10 anni e le sue origini cecene costituivano un problema persino per la sua sicurezza. In quei tempi, che poi sono i nostri, e che saranno ben buffi e incomprensibili visti fra 50 anni, Milana era una sans-papier, una clandestina, con tutta la sua famiglia. Milana era bravissima a scuola, dove aveva legato perfettamente con i suoi compagni francesi di Francia, ma il rischio che la mandassero via con la sua famiglia era alto, e così Milana era stata adottata da un'altra famiglia, composta da mamma Sandrine, Valeria Bruni Tedeschi, e papà Luc, il regista e anche attore Romain Goupil. Anche andare a scuola, sempre scortati dai genitori, diventava una pratica imbarazzante. No, davvero, adesso è troppo, mamma. Ci accompagnate a scuola, ci venite a prendere tutti i giorni. Non siamo più dei bambini ormai. Ci vergogniamo. Non ci serve la scorta. Certo, i genitori non ne fanno mai una giusta. Per ora è così, dopo le vacanze si vedrà. Sempre si vedrà. Non è giusto. No, è vero. E poi comunque i bambini hanno meno probabilità di essere controllati che gli adulti. Beh sì, per colpa vostra alla fine magari ci fermano. Al contrario, se ci siamo noi non vi fermano. No, invece possono. Se noi però camminiamo da soli mano nella mano... Avremmo l'aria innocente. Ha ragione. Invece con voi abbiamo molte più possibilità di farci fermare. La fate finita? Se continuate, vi mandiamo in Russia tutti e tre. Via, da Putin. Quando la pressione della gendarmerie sui sans-papiers diventa tale da causare anche un suicidio, tra l'altro il genitore di uno dei piccoli amici di Milana, la banda mette a punto un piano. Con pazienza comincia a stipare oggetti utili e derrate alimentari, e poi tutti giù in cantina, rinchiusi, facendo perdere le proprie tracce e gettando nel panico prima le loro famiglie, poi il paese intero. Mercurocromo, medicine per il mal di pancia. A caso dell'aspirina, ma non posso rubarne troppo. Allora porta i coltelli e le batterie per il computer. Sì. Niente cellulari soprattutto, ok? Almeno uno. No, no, perché gli sbirri, sai, hanno un sistema che localizza le sim e possono trovarci. Piuttosto, chi porta il pepe? Portiamo anche lo specchio. Non hai uno più piccolo? Ma no, dai, prendiamo questo. Va bene, come vuoi. No, lascia, ci penso io. Avremo dei problemi a chiudere la tua borsa dopo. Ma no, tranquilla, entra tutto benissimo. E poi queste. Ok. Ah, e la mia gabbietta. Non ci starà mai. Ma sì. La puoi portare in mano, la gabbietta? Sì, tieni, per truccarsi. Ma non dobbiamo fare delle feste. Dai, voglio. Prendi delle cose queste utili. Sono no, cose Alice. Utili. Bello, originale, francese, della Francia migliore, quella che fa capo alla poetica dei bambini di François Truffaut e a quella lato gauche della Nouvelle Vague impegnato. Romain Goupil è un regista schierato, ma è un regista da scoprire, almeno in Italia si vede il bellissimo Amor la mort di qualche anno fa. Dirige con passione e joie de vivre un cinema vibrante, sempre teso a individuare la genuinità che sta nel nocciolo dell'uomo vessato e piegato ma non sconfitto dalle regole della vita moderna. In questo caso dei bambini che usciranno dalla loro incredibile avventura scoprendo di avere le mani in alto e di essere condannati a crescere e diventare adulti. Ma dentro la sua parabola, Goupil sferza anche la posizione della Francia di oggi nei confronti degli immigrati, un dibattito che non trova estranea neanche l'Italia. Il pretesto dei valori repubblicani è che devono far funzionare tutto. Ecco, sono tutti valori che io detesto. Esclusione, arresti, etichette, stigmatizzazione dello straniero. Quando sarebbe un dovere dei politici trovare dei sistemi per vivere insieme, con l'idea che apparteniamo allo stesso mondo, dove le frontiere non servono più e che si possa pensare l'Europa o gli Stati Uniti d'Europa senza dire sono francese o come ora si dice sono alsaziano o bretone e pensare di appartenere a qualcosa di comune, senza frontiere. Questo delle frontiere è uno dei problemi amministrativi più drammatici in questo momento, ma forse non rende granché nei tempi lunghi. Un dibattito che diventa ancora più anacronistico, se vogliamo, in Francia, paese colonizzatore e pieno di immigrati da generazioni. Tanto per fare una battuta, si dice spesso trovate tre francesi autoctoni nelle nazionali transalpine di calcio negli ultimi 15 anni e sarete premiati. Ancora Goupil. L'envie, c'est par rapport à des choses qui sont insupportables sur... Ci sono delle cose che sono insopportabili di questo dibattito sull'identità nazionale, che continua ad affermare che gli immigrati sono sinonimo di insicurezza e di illegalità, che gli immigrati sono dei delinquenti, mettendoli sempre in opposizione all'identità nazionale. Cioè, grosso modo, questo significa che gli immigrati sarebbero degli antinazionalisti. E questo era Romain Goupil per Tutti per Uno nei cinema italiani in questo fine settimana. Noi a questo punto però apriamo la seconda finestra sul Blu-ray Game di oggi e ascoltiamo un'altra clip. Cara bambina, qui non si tratta di un compleanno. Ci mancherebbe. Il nostro è un non compleanno. E qui comincia a esserci qualcosa nella intonazione, nella pronuncia di alcune parole che potrebbe darvi un'ulteriore spinta. La Rosa Purpurea @radio24.it per dirci qual è il film misterioso di questa settimana. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Sulle note della colonna sonora di Paul, il film di cui vogliamo parlarvi ora nei cinema italiani, anche questo in questo fine settimana, un film annunciato da una campagna di promozione che sicuramente avrete visto fra gli autobus delle grandi città, i trailer in televisione, un film che è un vero e proprio road movie attraverso l'America ma con alieno a bordo. E allora andiamo un po' a raccontarlo. Graham e Clive sono due nerd inglesi sui 35 anni, adolescenti mai cresciuti, in viaggio in America per visitare il Comic Con, che è poi il principale salone del fumetto e del fantastico del mondo. Il loro intento è partire poi da San Diego, dove si tiene questo salone, per un viaggio negli Stati Uniti alla ricerca dei punti in cui sono stati avvistati gli UFO, Area 51 compresa, facendo sosta di tanto in tanto in affascinanti rock and roll bar. Guarda i cieli o alieno a bordo? Alieno a bordo? Alieno a bordo, grazie. Ok, come volete. Allora, che mi dite del Comic-Con? Ah, c'era Adam Shadowchild. E che cazzo è Adam Shadowchild? Ha scritto la pangenesi venusiana. Mi manca, non l'ho letto. Jenny Star Pepper e la gallina di Ottone? No. Il robot e la maestra? Preferisco le storie d'amore. Ma questa lo è? Tra una macchina e una donna? Ah, sì? Questo mi piace. È proprio su una di quelle strade infinite dell'America interna che i due incappano in Paul, reduce da un incidente. Paul è alto sì e no un metro, ha la pelle grigiastra e la testa a pera, perché Paul è un alieno. Squilla. Non lo farei se fossi in te. Metti giù il telefono. Oh, cazzo. Che gli hai fatto? Non gli ho fatto niente, è svenuto. Sei tu che lo hai fatto svenire? Sì, ma non è che ho tarato il mio phaser su svieni. Hai un phaser? No, io non... Cavolo, ascolta. Ehi, mi serve il vostro aiuto, ok? Possiamo riportarlo sul camper? Sei un alieno! Però non ti sfugge niente. La voce di Elio, che appunto interpreta Paul nella versione italiana. Ripresisi dallo shock, Graham e Clive decidono di dare un passaggio al povero Paul in fuga dai servizi segreti americani immancabili in questi casi. E qui viene in mente già una decina di film del passato, capitanati da una cattivissima Sigourney Weaver, che lo braccano per estorcergli a suon di vivisezione gli ultimi segreti che conserva. Ma la convivenza non è facile. Che cos'hai, Clive? C'è un alieno nel cucinotto che sta preparando ciambelle e caffè. Vuoi del tè? No, non voglio del tè. Già, il tè qui in America è strano, vero? Lasciano la bustina dentro. Quello che è strano, Graham, è che abbiamo a bordo un autostoppista alieno. E a te sembra perfettamente normale. Ciambelle e caffè. Marmellata. Beh, la sua vita è in pericolo. Ha bisogno del nostro aiuto. Insomma... A volte bisogna correre dei rischi. E infatti il viaggio prosegue fra mille peripezie. I due con Paul a bordo fanno tappa in una rimessa di caravan e lì conoscono una giovane ragazza, figlia di un predicatore sgangherato, timorata di Dio. La prenderanno a bordo e, diciamo così, la cambieranno molto. Anche perché Paul è in possesso di qualità davvero extraterrestri. Che c'è? Andiamo, crescete. Avete visto i miei pantaloni? Come ci sei riuscito? Come sei diventato invisibile? È una schermatura mimetica. Come Predator? Esatto, ma per farlo devo trattenere il fiato. Ma puoi farlo quando vuoi. Sì, terrestre! Sei uguale. Dirige Greg Motto, la specialista in commedie adolescenzial virili, e in effetti forse questo è l'aspetto che funziona di più in questo film, il rapporto fra questi due nerd, Graham e Clive, che vogliono credere a quello che la loro testa gli dice, insomma, non a quello che vedono, e accettano alla fine con una certa nonchalance l'idea di avere a bordo un alieno con il quale chiacchierare e condividere un viaggio verso la salvezza che poi avrà una forma che non vi stiamo a dire per non togliervi quel pizzico di suspense che comunque il film cerca di avere fino alla fine. Un film che cita e prende in giro molto del cinema di fantascienza dagli anni 70 in poi. Mi viene in mente, certo, Incontri ravvicinati del terzo tipo, ovviamente E.T., ma anche più recentemente Men in Black. Comunque Spielberg ne prende parecchie da questi due durante questo viaggio, però è un film che mette in scena un'umanità appunto che si rifiuta davvero di crescere. Bene, non benissimo, film divertente senza uscire pazzi dal cinema, ma un film che ha anche forse perso qualcosa. L'apporto di Elio al film è interessante, divertente, anche se forse la sua voce così caratterizzata è un po' fuorviante. Se vi capita di vedere per esempio il trailer su internet della versione originale, sentirete che la voce di Paul è una voce molto molto profonda, cupa, e per esempio anche si gioca molto sul fatto che i due protagonisti sono inglesi, lo si fa anche con alcune battute durante il film, mentre nel nostro film ovviamente il doppiaggio appiattisce tutto, americani e inglesi parlano nella stessa maniera, lì si gioca molto su questa differenza. Però insomma, una commedia che, come dicevo, si fa guardare dall'inizio alla fine. A questo punto noi, detto di Paul, diamo la linea alle strade terrestri per sentire come vanno le cose. Fra poco torniamo per parlare delle visioni domestiche e di tutto il cinema da vedere in casa. Ed eccoci ancora qui alla Rosa Purpurea, stiamo per entrare nella fase finale della trasmissione, come sempre dedicata alle visioni domestiche, a quello che il cinema in televisione o in un video ci può offrire per, come dire, rinfrescare il nostro patrimonio di conoscenze cinematografiche o per ampliarlo. E come sempre noi cominciamo dal palinsesto della prossima settimana televisiva in chiaro sul digitale terrestre, senza spendere una lira. Grandi film vi aspettano, li selezioniamo come sempre con gli amici del settimanale Film TV, sentiamo Giulio San Giorgio. Ciao Franco, bentornati con le segnalazioni di Film TV. Questa settimana innanzitutto segnaliamo un film che sta passando in questi giorni su Rai Movie, mercoledì appunto su Rai Movie alle 2:40, Breve incontro. Da un atto unico di un record, un uomo, una donna, entrambi con famiglia, i loro incontri fugaci ed educati e la presa di coscienza dell'impossibilità del loro amore. Un capolavoro melò, girato da David Lean nel 1945 e capace di ritrarre attraverso due individui un intero mondo piccolo borghese con le sue gabbie sociali, culturali, morali. Per la piattezza della vita familiare, il bisogno appunto di questa sublimazione romantica che nel film è sulle note di Rachmaninoff. E allora Breve incontro, mercoledì su Rai Movie alle 2:40 e cinema d'autore anche per la seconda scelta di Film TV. La seconda segnalazione è appunto Alice non abita più qui, sabato su Rai 1 all'1:20, storia di una giovane sfortunata vedova in viaggio on the road con il figlio per raggiungere una dimensione di sopravvivenza. Ma nell'America di Scorsese, qui è uno dei suoi primi film, girato nel 1974, non ci sono seconde chance, il sogno americano è sempre comunque un sogno frustrato. Ne esce una straziante cronaca di una vita faticosa e mediocre nella provincia americana, che dice cose vecchie ma con gli abiti nuovi della New Hollywood e conferma appunto il talento del futuro grande autore che verrà. E allora parleremo ancora di Scorsese fra poco nell'angolo invece dell'on video. Alice non abita più qui, sabato su Rai 1 all'1:20, grazie a Giulio San Giorgio. Grazie Franco e a settimana prossima con le segnalazioni di Film TV. È arrivato il momento di giocare per la terza e ultima volta con il film misterioso di oggi. Oh nonno, ne ho abbastanza di conigli, voglio andare a casa, ma non riesco a trovare la mia strada. Naturalmente, perché non hai una strada tua. Se non l'avevate ancora indovinato, beh, adesso insomma abbiamo citato anche un animale che è più di un indizio. La Rosa Purpurea @radio24.it per partecipare al game e provare a vincere questo Blu-ray. Settimana scorsa vi avevamo proposto questa traccia. Ne vuole droga? Erba, hashish, coca, mescalin, eroina, oppure magari dell'anfetamina o tutto quello che vuole. No, non mi interessa quella roba. Esplosivi, detonatori elettrici, spoletti a tempo, non le servono. Vuole una Cadillac? Ho una Cadillac nuova foderata in pelle per $2,000. Straordinario Robert De Niro, Palma d'Oro al 29° Festival di Cannes, era il 1976 quando Martin Scorsese, abbiamo detto appunto questa settimana, passa in televisione Alice non abita più qui. In Blu-ray invece c'è Taxi Driver, che era il film della scorsa settimana, un capolavoro assoluto della storia del cinema contemporaneo, diretto da Martin Scorsese e della cui edizione in un video noi chiediamo lumi a Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, sì, un saluto agli amici in ascolto. In effetti è un'edizione assolutamente definitiva, quella ad alta definizione da Sony Pictures Home Entertainment e che restituisce sicuramente l'originale ruvida, ma anche se vogliamo tetra cinematografia del grande Michael Chapman. Non va in effetti travisata la grana per difetti, specie nella seconda parte del film. Tra l'altro è presente anche una traccia di TS ad alta risoluzione in italiano, sicuramente l'ascolto migliore è per l'originale inglese. Ci sono tantissimi contenuti extra, assolutamente strepitosi, 3 commenti al film con la partecipazione di Scorsese, dello sceneggiatore Paul Schrader, sono vari approfondimenti, addirittura la possibilità di visionare la sceneggiatura tradotta in italiano mentre si assiste al film. E tra l'altro ricordo ai collezionisti che presenta un'edizione limitata a 1500 copie con cartoline da collezione. Eh beh, insomma, non si lascia davvero nulla al caso per Taxi Driver, che è ovviamente uno di quei film che in una videoteca anche di enorme selezione deve esserci. E allora i vincitori, non ci dimentichiamo i vincitori del film della scorsa settimana del Game, perché sono stati Vanessa Quinto di Roma e Alberto Osculati di Segrate, provincia di Milano, che riceveranno a casa il Blu-ray di Taxi Driver. Noi andiamo avanti invece con le due segnalazioni, le due recensioni che tradizionalmente coronano insomma un po' il momento un video della Rosa Purpurea, e andiamo molto molto indietro nel tempo, andiamo a un cinema quasi quasi delle origini, non proprio ma quasi, con Joseph von Sternberg che dirigeva Crepuscolo di Gloria. Generale in auge all'epoca dello zar, è ormai un uomo ridotto in miseria a mendicare piccoli ruoli da comparsa nei film a Hollywood. Un noto regista russo lo riconosce in una fotografia e fa sì che l'anziano impersoni un generale all'interno di un film che ha proprio come soggetto il crollo della Russia zarista. L'attore finirà per immedesimarsi talmente nella parte al punto da credere di essere davvero tornato in guerra. Da un'idea di Ernst Lubitsch, un'opera diretta da von Sternberg intorno agli anni 20, pellicola appunto del 28, con questi graffi, questa grana comunque che non impediscono la dignitosa visione del DVD di CG On Video, la traccia musicale è Dolby Digital 2 canali, come abbiamo ascoltato, comunque di buona qualità, non sono presenti extra. Ovviamente abbiamo ascoltato musica perché si tratta di un film muto, questo forse ci eravamo scordati di dirlo. Attenzione, ci sono 2 Crepuscoli di Gloria, uno degli anni 40, sono oro, e appunto questo del 28 di von Sternberg, muto, e quindi un capolavoro dell'epoca del cinema che ancora per un anno, perché il film è del 28, nel 29 il cinema avrebbe trovato la parola con il cantante di jazz e quindi sarebbe diventato sonoro. A questo punto noi invece ritorniamo con un balzo in avanti di una cinquantina d'anni e più a un film che è stato al di là dei suoi meriti non particolarmente eccelsi cinematografici, è stato però sicuramente un film di grande prepotente presenza nell'immaginario di una generazione che è quella degli anni 70, per intenderci. E stiamo parlando di Lady Hawk del 1985, diretto da Richard Donner e con un cast importante di attori che poi abbiamo potuto amare anche negli anni precedenti, alcuni, e anche soprattutto successivi altri. Ma andiamo ad ascoltare la clip. Io ho aspettato per quasi 2 anni che mi giungesse un segno da Dio. Perciò quando ho udito le campane di Hagion, ho capito che l'ora del destino era giunta per me. Tu sarai il mio angelo guida. Io? Signore, in verità io parlo con Dio continuamente, ma senza offesa non ti ha mai nominato. No? Vi sono strane forze che agiscono nella tua vita. Forze magiche che ti circondano. Io non le capisco, però mi spaventano. Siamo nel Medioevo. Il ladruncolo Philippe, che abbiamo appena ascoltato, fugge alla sua esecuzione. Incontrerà Navarre, un valoroso soldato, accompagnato da uno splendido falco, sotto le cui sembianze si cela la bella Isabeau, costretta in quella condizione di giorno, mentre Navarre, di notte, muta in lupo. Entrambi colpiti da una maledizione del vescovo del posto, invaghitosi della donna. Il giovane Philippe aiuterà Navarre a ottenere vendetta. Girato in Italia, il film si avvale della splendida cinematografia del maestro Vittorio Storaro, sicuramente superiore al DVD ora all'uscita da Fox Home Entertainment del Blu-ray. soffrono in parte le immagini per un po' di grana, complicando la profondità di campo. L'audio in italiano è simile a quello dei DVD, sicuramente meglio l'originale ad alta risoluzione, e come extra abbiamo solo il trailer. Beh, un cast, come dicevo, di nomi che sono rimasti, da Rutger Hauer, che è Etienne, a Matthew Broderick, che è Philippe, ma soprattutto, chi non ha amato in quel film, la splendida Michelle Pfeiffer, che era appunto Isabeau. E questo era Lady Hawk, anno 1985. A questo punto un saluto a stavo confondendo Claudio Poffi con Boris Sollazzo, ma sono due validi collaboratori di questo programma. Ciao Claudio, appuntamento la prossima settimana. Grazie Franco, a presto, ciao. Ed eccoci addirittura d'arrivo, siamo arrivati ai saluti finali di questa nostra puntata della Rosa Purpurea. C'era tanto materiale di cui parlare, 5 film che vi abbiamo presentati. La prossima settimana non sarà da meno, perché il blockbuster sarà X-Men l'inizio, e già si preannunciano incassi importanti, ma ci sono anche film di un certo interesse fra Country Strong e London Boulevard, insomma ci sarà qualcosa di cui discutere. E allora appuntamento come sempre al sabato alle 18, alla domenica alle 15 per chi ci ascolta in replica, alla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti. Soluzioni Magazzino? Chiedi di più. Chiedi a Modulblock. Vi ha presentato La Rosa Purpurea.